giardino segreto. Il verde dentro le città. Di Roberta Pellegatta. Quando nella vita avrai dolori o preoccupazioni, va come ora ad occhi ben aperti per il bosco. E da ogni albero, da ogni cespuglio, da ogni fiore, da ogni animale, la potenza di Dio ti verrà incontro, dandoti forza e consolazione. Buongiorno, buona domenica. Innamorata della natura, ci sarà anche la principessa Sissi in giardino con noi oggi, quando tra poco andremo in Alto Adige a visitare uno dei castelli della sua vita, quello di Traunmandorf a Merano, o meglio i 12 ettari di biodiversità che lo circondano, perché i giardini di Traunmandorf, conosciuti anche come quelli di Sissi, hanno da poco riaperto al pubblico con una mostra proprio dedicata alla biodiversità. Prima andiamo in natura, in Lombardia, dove le piante le troveremo passeggiando nei boschi e lungo i fiumi alla scoperta della varietà della flora spontanea, che in qualche caso potremo anche portarci a casa e coltivare in vaso, anche perché le piante che stiamo per andare a cercare sono alimurgiche, cioè si possono mangiare. Le studia da tempo Nicola Ardenghi, botanico, ricercatore all'Università di Pavia, al Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente. Già ribattezzato il cacciatore di erbe selvatiche, ha perlustrato l'intera Italia alla ricerca di piante alimurgiche e di specie autoctone e aliene, uno dei più grandi conoscitori in particolare della flora lombarda. Ben trovato al Giardino Segreto. Buongiorno a tutti, molto gentile, la ringrazio. Io diciamo sono uno dei tanti esperti presenti nella regione Lombardia. Io ho portato il mio contributo per quanto riguarda soprattutto la flora pavese. La flora della Lombardia è una flora molto varia. Anche perché abbiamo scoperto che la Lombardia, una regione che sta vivendo davvero dei momenti non facili, è la regione con maggior biodiversità in Italia. Per cui possiamo sbizzarrirci, cioè non serve andare a vedere un giardino storico, a passeggiare in un parco o possedere un giardino, perché poi in realtà le piante sono tantissime e basta uscire in natura con un po' di curiosità per scoprirle. Assolutamente, questa elevata diversità si deve soprattutto alla diversità ambientale della nostra regione. In Lombardia è presente la catena alpina, ma anche le prealpi, i grandi laghi, dove ci sono delle condizioni non del tutto dissimili da quelle mediterranee. Poi abbiamo anche la porzione più settentrionale dell'Appennino in provincia di Pavia e infine nella pianura padana poi troviamo anche le cosiddette piante esotiche o aliene che sono state introdotte dall'uomo da altri paesi o addirittura da altri continenti. Leggo che lei ha censito quasi 3.000 tra specie e sottospecie, pari a circa il 70% della flora della Lombardia. Ora, noi abbiamo una manciata di minuti qui al Giardino Segreto, quindi dobbiamo per forza chiedere di selezionare qualcosa che la sorpresa, che possa sorprenderci e che eventualmente possiamo anche andare a cercare. Diciamo, le piante che mi hanno più incuriosito in generale sono state alcune esotiche, in particolar modo delle viti esotiche, americane nello specifico, che mi hanno interessato per la loro diversità e anche soprattutto per la loro origine. Infatti queste viti americane vennero introdotte soprattutto nell'Ottocento per risolvere un grave problema, una grave malattia che affliggeva i vitigni da cui oggi noi ricaviamo l'uva soprattutto per produrre il vino o l'uva da tavola, e questa malattia era dovuta a un insetto che era stato introdotto dal Nord America, che si chiama fillossera e che attaccava le radici delle viti europee, e pensarono di risolvere la questione sostituendo le radici della vite europea coltivata con le radici di queste viti americane. E oggi tutte le viti coltivate presentano le radici di una vite americana. Solamente cosa è successo? Che nel tempo queste viti americane molto rustiche sono riuscite a fuggire dai vigneti e a insediarsi anche negli ambienti naturali. E quindi percorrendo semplicemente l'argine del fiume Po noi possiamo vedere la storia in piccolo della viticoltura italiana ed europea degli ultimi 150 anni. Quindi viti spontanee, da queste però non si ricava il vino? Da alcune di queste viti americane una volta si ricavava il vino che ricorda un po' il gusto dell'uva fragola, vino casalingo molto economico che aveva esercitato una forte competizione economica con i nostri vitigni, tanto che negli anni 30 poi li avevano banditi dalla coltivazione su larga scala. Ci faccio un esempio su tutti di un luogo fisico dove andare a vedere le viti americane? I grandi fiumi, i boschi residuali oramai lungo il fiume Po, per esempio, ospitano diverse specie di viti americane e spesso si notano molto bene perché tendono letteralmente a tappezzare la vegetazione arbustiva e arborea delle golene. Senta, quindi anche dalle viti americane si ricavava del vino, perché un po' da tantissime piante si ricava cibo, si ricavano bevande. Io mi chiedo se lei vada ancora al supermercato a comprare la verdura, perché a quanto mi capita di vedere anche sui social, riesce a trovare piante cosiddette alimurgiche dappertutto, cioè piante spontanee che possiamo cogliere naturalmente in natura e che possiamo utilizzare nei nostri piatti in maniera davvero molto semplice e peraltro anche gustosa. Assolutamente, la natura e anche la natura lombarda ci offre numerose di queste specie spontanee alimurgiche, alcune sono anche molto comuni e relativamente semplici da riconoscere, mi riferisco ad esempio al luppolo che è una pianta lianosa nota anche agli estimatori della birra, di cui si raccolgono per esempio le cime dei fusti giovani e vengono utilizzate per preparare il risotto oppure per fare frittate o semplicemente condite con olio e limone. Ma poi siamo alla fine di maggio, maggio è il mese in cui fiorisce la robinia, i suoi fiori così belli e profumati possono costituire l'ingrediente base per delle gustosissime frittelle sia dolci sia salate. La robinia che ha questi fiori a grappolo bianchi, no? Esattamente, molto profumati e che vengono utilizzati anche per produrre il cosiddetto miele da caccia. La robinia infatti è chiamata anche, seppure in modo improprio, a caccia. Non tutti sanno riconoscere le robinie. La raccolta delle piante alimurgiche in questo momento è alla portata di pochi, purtroppo. Perché non ne sappiamo, perché non abbiamo abbastanza informazioni. Secondo me dovremmo cominciare dalla scuola elementare. Esattamente, la scuola è fondamentale per avvicinare sin da subito i bambini e i ragazzi al riconoscimento delle piante spontanee, ma in generale alle scienze naturali. Poi esistono anche dei percorsi più mirati, anche a livello universitario, come quelli che ho seguito io. Ho frequentato il corso di scienze della natura all'Università di Pavia, che aiutano molto sia dal punto di vista dei contenuti, ma anche a stimolare l'interesse. Anche perché, insomma, è abbastanza complicato, per non dire pericoloso, suggerire delle piante spontanee alla radio, perché i vegetali possono essere insidiosi, occorre davvero riconoscerli molto bene, fare attenzione, andarci coi piedi di piombo, magari fare anche qualche corso. Però, ad esempio, citiamo una pianta che tutti conosciamo fin da bambini, anche perché ci pungeva parecchio, l'ortica. Io sogno di farmi un risotto all'ortica, ma a Milano non ne trovo molte in giro. Potrei coltivarla in vaso? Si potrebbe, l'ortica è una pianta piuttosto rustica che cresce lungo i fossi, lungo il margine dei boschi, in zone ombrose e un po' umide, si potrebbe provare semplicemente raccogliendo in natura una pianta di ortica, prestando attenzione a raccogliere anche la porzione che si trova sottoterra, quindi il suo rizoma, trapiantarla successivamente in vaso ed è molto probabile che questa attecchisca e poi produca i getti e le foglie giovani che poi sono l'ingrediente fondamentale per la preparazione del risotto o di altri piatti molto interessanti. Perché l'ortica, pianta piuttosto odiata appunto perché urticante, in realtà è una pianta di cui non si butta via niente, si può fare anche un ottimo concime con le ortiche, per intenderci. Esattamente, un tempo la utilizzavano anche come pianta tessile, sfruttando le fibre presenti all'interno del suo fusto, quindi possiamo dire che appunto dell'ortica non si butta via niente. Prima ci ha citato una pianta esotica che è la sorpresa della regione lombarda, adesso vorrei che ci dicesse qualche pianta che è la sorpresa ma che è davvero nostra, originaria della Lombardia, a cui badare quando facciamo una passeggiata in natura in questa regione. Le piante esclusive della Lombardia si chiamano piante endemiche e la nostra regione ne ospita in gran numero. Io vorrei citarle il caso di una felce acquatica endemica della pianura padana che si chiama Isoetes malinverniana. Essendo questa una pianta che si trova esclusivamente nella pianura padana, quindi in un'area geografica sottoposta a un forte impatto antropico, questa pianta è fortemente a rischio. Dove si trova? Più in Lombardia si trovano nel parco del Ticino Pavese e cresce all'interno di fossi e canali ad acqua molto limpida. Tuttavia non è così difficile osservarla perché in questi ambienti si nota, produce delle foglie nastriformi verdi che sono trasportate dalla corrente e questo suo aspetto morfologico può essere notato. Abbiamo parlato della biodiversità in Lombardia, Nicola Ardenghi, la regione con la più grande biodiversità naturale, insomma, in Italia. Biodiversità è una parola piuttosto fredda, ma in realtà è fondamentale, insomma, anche noi siamo biodiversità, no? Cioè, perché è importante? Tra l'altro c'è appena stata la giornata della biodiversità a maggio. Perché è così importante preservare la biodiversità e cos'è? La biodiversità, come insegna un po' anche la vicenda da cui stiamo forse uscendo, è fondamentale perché la diversità aiuta a migliorarsi, la diversità genetica aiuta a migliorare una specie, aiuta ad affrontare sempre meglio le sfide che la natura propone e in questo senso la biodiversità può essere intesa anche, parlando di piante, si può intendere anche come biodiversità delle piante coltivate, quindi agrobiodiversità, diversità che va a interessare sia il loro adattamento all'ambiente, ma anche più semplicemente una diversità di sapori e utilizzi in cucina. Quindi la biodiversità intesa sia per le piante selvatiche sia per le piante coltivate è fondamentale anche per migliorare la vita della specie umana, cioè di noi. Nicola Ardenghi, vorrei allora consigliare un libro che si intitola Guida all'agrobiodiversità vegetale, un suo libro. Sì, questo è un libro che ho scritto assieme al professor Graziano Rossi dell'Università di Pavia. Questo libro, che è stato recentemente pubblicato dalla Pavia University Press, tratta della diversità sia delle piante spontanee di interesse alimentare sia delle piante coltivate nella provincia di Pavia, ma diciamo che presenta anche un po' uno spaccato della situazione lombarda. E questo è un libro che deriva da anni di ricerca sul campo che ci ha portato vicino alle persone, ci ha permesso di intervistare soprattutto tanti anziani che hanno raccontato delle loro tradizioni culinarie ma anche agrarie legate a queste piante che sono in fase di scomparsa e che necessitano di essere tutelate. Noi abbiamo voluto presentare un po' questo panorama fatto appunto di piante alimurgiche ma anche di antiche varietà coltivate. Quindi piante alimurgiche che si possono mangiare e quindi in questo libro ci sono anche eventualmente appunto come si possono utilizzare queste piante spontanee del Pavese ma che valgono un po' insomma per l'intera regione. Esattamente, perché questo libro è strutturato in schede e tra le voci presentate c'è anche quella relativa agli utilizzi in cucina, e alla fine di questo libro c'è anche un appendice con ricette sia legate alla tradizione sia innovative, in cui protagoniste sono piante alimurgiche e antiche varietà lombarde. Guida all'agrobiodiversità vegetale della provincia di Pavia, Nicola Ardenghi, e sono stati intervistati gli anziani, perché sempre lì si va quando si parla di piante spontanee, si cerca nel passato perché ne sapevano più di noi, evidentemente abbiamo perso qualcosa negli anni, no? Senta, ma chi volesse passare una vacanza alla scoperta della nostra flora, delle piante spontanee, ha dei mezzi, delle visite guidate? Voi lo fate, le organizzate? Come Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente noi siamo strettamente legati a un'istituzione storica che risale al 1773 ed è l'Orto Botanico dell'Università di Pavia, che in questi giorni ha ripreso le visite guidate, e nell'Orto Botanico di Pavia vengono presentate anche le piante oggetto di ricerca da parte del Dipartimento di Scienze della Terra e dell'ambiente, e nelle collezioni dell'Orto Botanico i visitatori possono apprezzare anche le piante alimurgiche tradizionali e le antiche varietà coltivate che noi mettiamo a disposizione del pubblico affinché possano apprezzare da vicino senza dover spostarsi in ambienti remoti o lontano dalle città. Ormai un po' gli ambienti remoti li sogniamo, a dir la verità. Io uscirei volentieri dalle città, però l'orto botanico e gli orti botanici in generale sono sicuramente uno strumento utilissimo per avvicinarsi alle piante, alla flora spontanea, di cui Nicola Ardenghi, un grande conoscitore, grazie per essere stato al Giardino Segreto. Grazie a lei per avermi dato l'opportunità di presentare le mie ricerche. Con un po' di nostalgia per quel bel pianeta blu potremo smetter di parlare, di cantare, di viaggiare, tutti chiusi dentro casa, nelle stanze chiuse a chiave. Non litigheremo mai, non ci ammaleremo più, tranne che di nostalgia per quel bel pianeta blu. A proposito di biodiversità, tra poco ci ritroveremo a Merano, in un giardino che raccoglie gran parte delle piante di questo bel pianeta blu. Il giardino segreto. Bentornati. Parchi e giardini storici per fortuna stanno riaprendo in tutta Italia. Venerdì, il 29 maggio, ha riaperto anche quello di Traunmandorf a Merano, in Alto Adige, pronto ad accogliere i turisti nel suo anfiteatro ricco di ecosistemi. Natura circondata da natura. Bentrovata Gabriella Pircher, direttrice dei giardini di Merano, che semplificando possiamo anche chiamare giardini di Sissi, cosa dice? Sì, grazie, buongiorno. Va benissimo, anche se il nome Traunmandorf è per noi molto importante perché è il nome del castello che insomma ha dato anche il nome ai giardini, diciamo così, però si conosce ai giardini anche come i giardini di Sissi, perché ovviamente l'imperatrice Sissi era in questo castello, per quello va anche bene il giardino di Sissi, va benissimo. Castello di Traunmandorf, intorno al quale si dispiega questo anfiteatro di 12 ettari, questo giardino che è un regno della biodiversità. Esatto, quest'anno infatti abbiamo questo tema per noi molto importante della biodiversità, con cartelloni informativi, installazioni artistiche e fotografiche. Vorremmo approfondire questo tema perché per l'uomo, per gli animali, per le piante, per tutti noi il tema è quello che ci dovrebbe occupare per il futuro, no? Perché questi giardini in Alto Adige, che peraltro hanno anche delle viste mozzafiato sulle montagne, in realtà ospitano anche specie esotiche e mediterranee. Ma come fate? È vero quello, che noi siamo tanto fortunati per il clima che abbiamo, il clima qua d'inverno è molto mite e per questo abbiamo anche delle piante esotiche mediterranee che per noi sono speciali ovviamente perché abbiamo proprio quella situazione di trovarci con le montagne ancora con la neve e poi le piante come le palme, come le piante mediterranee qua in questa zona di Merano, in questo nostro giardino e questo insieme è molto speciale. Ma senza serre quindi? Senza serre ovviamente abbiamo una protezione invernale per certe piante, non tutte ma certe piante li dobbiamo anche coprire. Le palme in Alto Adige e abbiamo detto tutto, capiamo il perché del tema di quest'anno dedicato alla biodiversità, di cui lei diceva ci dobbiamo preoccupare per il futuro, perché noi stiamo uscendo, speriamo, incrociamo le dita, da un momento difficilissimo ed è ovvio che al futuro che dobbiamo guardare e in particolare alla biodiversità. Esatto, è vero, cioè i giardini sono un vero hotspot, diciamo, della biodiversità, non solo perché abbiamo tante piante diverse, dalle piante esotiche, ma anche delle piante autoctone, delle piante della zona, ma offriamo anche tanti habitat, cioè un habitat molto variato, sia quello acquatico, ma anche quello per altre specie che preferiscono delle zone più aride, eccetera. Cioè abbiamo una diversità anche nei posti, diciamo, e per molte piante, animali, ma anche funghi e microorganismi che in questo giardino fanno la biodiversità che in un giardino è molto importante. Tra l'altro nei vostri giardini si può davvero camminare per ore perché sono molto estesi, con scenari che cambiano, camminamenti, punti per poter godere la vista, cascate e così via. Purtroppo, come tutti gli altri giardini, gli altri parchi storici, anche quelli di Traunmasdorf sono stati chiusi, è saltato il Merano Flower Festival a fine aprile, però non importa, bisogna recuperare. Tra l'altro l'anno prossimo compite 20 anni. Sì, è vero, cioè per il prossimo anno siamo molto fieri che possiamo festeggiare questi 20 anni che sono stati dei 20 anni con molto successo perché negli ultimi anni abbiamo sempre avuto intorno ai 400.000 visitatori per anno, cioè per una stagione. E vuol dire che i giardini hanno anche un nome che è conosciuto ed è un giardino dove la gente viene non solo una volta ma anche più volte. La diversità anche in questo mondo del giardino, cioè si può camminare in un bosco ma dall'altra parte del castello c'è il roseto, poi c'è anche la zona dell'Alto Adige, cioè si ha in un piccolo mondo, diciamo piccolo, sono 12 ettari, ma in questi 12 ettari si può vedere una marea di diverse vegetazione molto diversa, no? E ampia. Ecco, i giardini hanno riaperto venerdì 29 maggio, abbiamo perso le fioriture tipiche della primavera, però chissà quanto rimarrà. Che cosa si può vedere d'ora in poi? Allora, adesso siamo in piena fioritura delle rose, dei perenni, le clematide. È bellissimo adesso il giardino e arriveranno adesso la fioritura estiva con la lavanda, il melograno, c'è le specie anche mediterranee adesso che da noi ovviamente sono un po' più tardi che più al sud. C'è sempre qualcosa da vedere e devo dire che mi dispiace tanto ovviamente di non avervi potuto far vedere la fioritura primaverile, ma vi posso garantire che la fioritura adesso in giardino è molto ma molto bella. Ci credo. Allora, Gabriella Pirce, naturalmente, insomma, ci saranno tutte le misure di sicurezza, ingressi contingentati. Esatto, anche noi ovviamente per noi le misure di sicurezza sono molto importanti, avremo il controllo della temperatura, abbiamo ovviamente anche le mascherine, tutto quanto e speriamo anche che la gente ovviamente, facciamo anche l'appello al senso della responsabilità dei visitatori, ma quello penso anche che i visitatori lo capiscono. E ovviamente all'inizio abbiamo detto che lasciamo entrare 500 persone al massimo per poter per vedere un po' com'è la situazione, diciamo così, e se vediamo che funziona bene possiamo anche un po' aumentare. Però penso che anche per i visitatori adesso, queste visite adesso all'inizio sono molto ma molto speciali, perché è quasi come essere da soli nel giardino. Sì, se vogliamo trovare un lato positivo al Covid è questo, di poter vivere degli spazi, degli ambienti in un modo che sarà unico, senz'altro. È meglio prenotare online o ci si può presentare alla cassa? Allora, noi abbiamo dei biglietti online dove si può prenotare la visita, così la visita è fissa, cioè se si compra il biglietto online si entra anche per questa giornata, altrimenti si può anche andare alla cassa e acquistare il biglietto là. Se c'è tanta gente ovviamente magari conviene aspettare un po', oppure a ritornare al pomeriggio, che normalmente il pomeriggio è un po' più calmo. Grazie a Gabriella Pircher, direttrice dei giardini del castello di Traunmandor, siamo a Merano in Alto Adige. Grazie per essere stata al Giardino Segreto. Grazie mille anche a voi, grazie. Sulla terra non c'è il paradiso, ma ci sono dei pezzi di esso. Jules Renard. Grazie per essere stati in giardino con me anche oggi. Ci risentiamo con i fiori e le piante alla radio a giugno, domenica prossima, sempre alle 15:30, oppure in podcast quando volete. Una buona settimana da Roberta Pellegatta.